certo? Ma innanzitutto mi impedisce il fatto che lavora. Aspetta, no, ma capisci. Andando a lavorare, chiaramente, tutta la struttura. Cioè, uno che lavora 8 ore al giorno, c'è che fa? Per il vatesin. Il vatesin de notte. Eh? No, prima mi facevo un caso. Che cazzo? Quando io ero piccolo facevo niente, io ho cominciato a lavorare. No, da piccolo fino a 20 anni, io ho sempre rifiutato gli impegni. Cioè, no, non ho capito. Sì, ma il problema è mio. No, ma io non parlo di mio padre. Per mio padre parla lui, io parlo per me. Io sono un individualista, parlo per me. Non parlo per gli altri. Mio padre la fa. No, ma anche voglio dire, ma allora il discorso è questo qua. Non riusciamo a capirci. Io sapevo che veniva fuori sta roba qua. Cioè, voglio dire, credo di averlo detto bene la situazione. Per me la libertà è una concezione fisica proprio. C'era Sant'Epollà, eh? Ma sì, vabbè. Vabbè, oh, te che resumi. Io non ti do torto, io non do torto a nessuno. No, ma nel senso che io non do torto a nessuno. Ma appunto, sono due modi diversi di vedere. Io dico solamente che io a Senso San Giovanni non ci abiterei mai. Tranquillo, neanche a Rozzano, cioè voglio dire, facciamo i quartieri nuovi, no, per dire. Comunque, tornando poi al discorso del libro, che è quello che. No, vabbè, parla. Basta mettersi in malattia. No, ma te l'ho spiegato il perché però. Cioè, perché io no, te l'ho spiegato il perché. Ma sì, vabbè, voglio dire. Sì, però vabbè. No, vabbè, ma io non sono mica sofferto, non sto facendo fare la vittima, non voglio fare la vittima. Dico solamente che la mia ricerca letteraria, diciamo così, è una ricerca anche di libertà che corrisponde alla mia ricerca di libertà fisica, di spazi fisici di libertà. No, punto, basta. Poi io non credo il lavoro, non credo ci sia un lavoro per cui tu possa impegnarti fino a darti soddisfazione. Cosa vuoi che ti dica? Sono inattuale, se devi dire. Una volta c'era chi diceva cambiamo il lavoro, vabbè, se devi fare, non so, io mi sento, no, è italiano, no, leggi qualcosa. No, leggi tu che sei più bravo, dai. Leggici una pagina, leggici l'inizio. Ma no, l'inizio. Dai, così si rendono conto. No, aspetta. Non so, No, è scritto in italiano. Però c'è qualcosa, c'è in dialetto. La parte dialoghi. No, ma si capisce, dai, cioè non è Bantu, cazzo, non è Zulu, cioè per dire, cioè non è russo. Cioè è giga, ma sì, certo, casertano già. Ma no, dai, no, non facciamo queste cose qua. È comprensibilissimo. Dai, leggici qualcosa. Io non so cosa leggere. Ho detto all'inizio. Allora, vi leggo un brano breve che è tratto dal capitolo La strage di Mede, che fu strage di Mede, Mede l'Omellina, non Meda. Cioè, il 18 giugno del 26 furono uccisi due carabinieri durante uno scontro fuoco vicino a Mede, e ad ucciderli fu la banda di Sant'Epollato in persona con i suoi compagni. Il fatto suscitò un clamore, perché un omicidio, erano appena, si era già nel regime. un omicidio di due carabinieri durante uno scontro fuoco, insomma, c'era anche loro un po' l'allarme sicurezza, insomma, diciamo così. Però invece di fare un decreto legge, scatenarono appunto la caccia a Sante Pollastri e i suoi, che poi dopo un anno furono catturati a Parigi, perché la polizia italiana non riuscì mai ad arrestare Sante Pollastri. Nei carabinieri. E loro, Sante Pollastro, il Martin Massari e il Sengro Peotta, detto il Biondin, scendono alla stazione di Torre Beretti il 18 giugno del 26 alle 9 di sera e vanno a piedi, fanno la strada a piedi da Torre Beretti fino a Mede, saranno 6 o 7 chilometri. Allora si andava a piedi in bicicletta, insomma, erano, si avevano buone gambe, insomma, per andare a fare una rapina a Mede, un furto con scasso alla Banca Popolare di Novara. Sulla strada incontrano i due carabinieri, loro chiedono i documenti, loro tirano fuori le pistole, sparano e li ammazzano e li buttano nel fosso. E fu fuori un casino della Madonna, perché tutti i giornali ne parlarono, sono andato a vedere anche la stampa in prima pagina, cioè allora, insomma, ebbe molto clamore. E allora io vi leggo per arrivare a Torre Beretti presero il treno alla stazione di Porta Genova, perché loro avevano la base, cioè loro avevano come base delle loro la stazione di Porta Genova, via Savona, infatti c'è anche una canzone di Ivan Della Mea, il Megat, e via Savona, che all'epoca era la casba, insomma, della malavita, insomma, milanese, ligera e tutti questi, vabbè. Allora io scrivo, per andare, allora,